haut sur la butte pour regarder Paris, paradis des sardines. Tu vois, tu vises des parvis au parking, y'a que de l'asphalte, c'est malsain, même sans un tas de gros mots. Fraudeur de la NASA, un clandestin en compi d'astronaute. J'm'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. J'm'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Bentornati su Radio Wombat. Oggi Carta Canta non sa bene di cosa parlare, perché siamo pieni di eventi, di iniziative che ovviamente, come al solito, si sovrastano l'una sull'altra, però cercheremo un po' di fare un punto un po' della situazione a Firenze e in tutta Italia, perché di cose interessanti ce n'è, come sempre sono tutte insieme. Abbiamo degli ospiti speciali oggi, i nostri compagni, compagne, compagna, cagne della Squid, che poi faranno un appello per questo corteo che ci si terrà a Verona sabato, e ne parleremo un po' insieme per capire quali sono le cose da sapere su questa cosa. Intanto possiamo iniziare parlando anche di cosa è successo lo scorso fine settimana. A Prato c'è stata una manifestazione di Forza Nuova contro l'immigrazione, anche se cadeva nel centenario. E che cosa è successo? Si sono presentate in piazza circa una centinaia di persone, e invece la contromanifestazione antifascista è stata molto più partecipata. Sì. Pare ci fossero migliaia di persone. Questo per dimostrare, come al solito, che vabbè, i loro numeri sono questi, solo che i loro numeri, anche se sono veramente bassi, cioè fa capire molto la modalità con cui riescono comunque a scendere in piazza e a sfilare nelle nostre strade, perché boh, gli era stata vietata la marcia, diciamo. Poi all'ultimo gliel'hanno abbonata dicendo ok, vabbè, libero pensiero, bla bla bla. Quindi cosa è successo? Scortati dalla stazione, piccoli gruppi di fascinazzi di Forza Nuova, scortati letteralmente dalle forze dell'ordine per evitare qualsiasi tipo di attacco o roba contro di loro. Anzi, hanno anche fatto finta a un certo punto, sì, di fare... C'è stata una carichetta, perché loro, appunto, gli era stato vietato la marcia, cioè il corteo. Ma in realtà però, si stavano, cioè, abbracciando. Il presidio, diciamo, lo potevano fare. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Niente. Quando hanno deciso di partire, diciamo, tra colleghi e camerati c'è stato un po' un dai ragazzi, no, fermi, dai, andatevene. Un pre-orgia. Sì, un pre-orgia, diciamo, tra camerati, che insomma molto ridicolo, perché sappiamo che con noi di solito la polizia non è così gentile e ci abbraccia per dirci di non fare qualcosa. E niente, però comunque sono riusciti a sfilare, mentre dall'altra parte si cercavano di concentrare i numeri, perché no, ormai si pensa che dimostrando che i numeri sono maggiori da una parte si possa essere efficaci nell'antifascismo e fare in modo che questi tipi di pensieri di intolleranza, cioè, vengano a propagarsi, a dilatarsi tra le masse, no? Basta far sapere che anche gli antifascisti esistono ancora per qualcuno. Vabbè, noi, cioè, io personalmente tanto d'accordo non sono, perché cioè, sfilare pacificamente per dimostrare che esistiamo anche noi, cioè, non mi sembra la cosa più utile in questo periodo veramente buio della storia italiana, visto che questi sparano nelle strade, accoltellano i migranti, picchiano cioè, i diversi o i gay, o cioè, insomma tutte quelle categorie di persone che sono minoranze, ma che in realtà cioè, non hanno niente di diverso, niente in meno a nessuno di noi, però nella loro fetida mente e coscienza ci sono delle differenze cioè, sostanziali molto molto grosse. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Skin mask and track suit, you know who the angry on. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Right speed us, the real threat hit us. Back on the streets to show them all what real hit us. Defy them, lead us, we stay united, they can't defeat us. Get a blasting, we stay dusty, rip them, stay tax out, outlast them. I say the government like anti-pasty, we abandon us, fully against bars and plastics. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a stalk of the cut of plastics, plus we face the foes, things ain't close, they have guns on the nose. That's how it goes, you take the stand, more than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand, but it's deep to the form and you bang your head. Skin mask and tracksuit, you know where they hang me up. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and track suit, you know who the angry on. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Speak in the walls, give me gas, pack it. I got the same calls in the same lost space, check it. Still making a record, unity, funded by blood, who can't break it now? We get it one stop, bring in the noise, make a song of beat, hip hop, blast from hysteria. What time you say that, bring all the zombies, I will rebury them. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners and punks, spinach on bunks. Red vins come, yes, what to the light, kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody stand up to the song of beat, hip hop. Skin mask and tracksuit, you know where they hang me up. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and track suit, you know who the angry on. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. With the clockwork skinning, basket of justice, razor boys know no limits. Stepping over mix, stabbers and schemers, creaks and drinks, cups and things wanna split us. We are meant to be called thus. Can we take it apart, break the face against the glass? Radical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, a name is legend. Step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded. Bro, white, common folk, internet fighters. Face the biggest sweep, bring down the mic. With a mic in the hand and fire in the rhymes. Skin mask and tracksuit, you know where they hang me up. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and track suit, you know where they hang me up. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. E invece sabato è un'altra grande giornata di lotta in più posti, perché abbiamo qui a Firenze, abbiamo la giornata contro l'aeroporto, e a Torino invece ci sarà la manifestazione chiamata dall'asilo, e invece a Verona ci sarà la giornata mondiale del Family Day, e per questo abbiamo invitato le nostre amiche della Squirt per parlarci un po' di quali saranno invece le mobilitazioni contro questa giornata. Allora, vabbè, non è proprio il Family Day, è una cosa un po' peggiore. È il congresso mondiale delle famiglie eteropatriarcali, marito e moglie, tutti felici. E niente, questo congresso è nato 20 anni fa quasi, e all'inizio era un evento di pochi sfigati e si teneva ogni 4-5 anni, ma dato il vento reazionario che sta spirando in tutto il mondo, adesso è diventato annuale e quest'anno abbiamo la fortuna di ritrovarcelo in una delle città più aperte a ospitare questo evento, che è Verona, la città dove appunto è passata la prima mozione antiaborto in Italia. E niente, questo congresso ospiterà un sacco di gente che troverete tutta online su Grindr già da venerdì pomeriggio. E niente, non una di meno, ha chiamato una 3 giorni transfemminista già da venerdì, con vari eventi, e sabato ci sarà un corteo contro appunto il congresso mondiale delle famiglie. E niente, vabbè, possiamo dire quali sono le posizioni di alcuni dei partecipanti. In prima linea chiaramente abbiamo il ministro della famiglia, che ancora ci chiediamo il senso di un ministero per la famiglia, però vabbè, la nostra migliore amica Fontana. Qui possiamo leggere delle frasi molto interessanti, citate appunto da alcuni personaggi che saranno presenti al congresso delle famiglie. Per esempio Fontana che dice: la famiglia naturale è sotto attacco, vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo. E hanno ragione, quello che vogliamo fare. E poi abbiamo anche Silvania De Mari, che sarebbe una medico e scrittrice, che dice: l'omosessualità non esiste, esiste invece un odio. Si odio lo scriva da parte delle lobby LGBT nei confronti di chi sostiene la verità. Questa ovviamente verità ancora LGBT, non l'abbiamo conosciuta. LGBT perché i bisessuali sappiamo tutti che non esistono, perlomeno degli omosessuali. No. Discriminati nei discriminati. Esatto. Se no abbiamo anche Allan Carlson, autore e cofondatore del Lower Center, che dice: le deviazioni del comportamento sessuale naturale non possono davvero soddisfare lo spirito umano. Non sappiamo bene cosa voglia dire. Non ci interessa più che altro. Poi abbiamo un grande soggetto, una grande amica. Questa è una grandissima amica. Dmitry Smirnov, membro del Consiglio Supremo della Chiesa Ortodossa Russa addirittura. Personaggio importante. Quanto se la sentono? Che tono, una delle sue frasi celebre: chi sostiene l'aborto è cannibale, deve essere spazzato via dalla faccia della terra. E noi. E poi vabbè, non la commentiamo. E c'è Brian Brown, presidente dell'Organizzazione Internazionale per la Famiglia, che ci dice che l'omosessualità è degradante per la natura umana, essere gay distrugge il senso stesso dell'essere umani. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Poi la migliore di tutte, migliore, che arriva direttamente da Luganda, è la ministra ombra dello sviluppo sociale ugandese, che si chiama Lucia Kello ed è la sostenitrice della mozione per la pena di morte per gli omosessuali in Uganda, che può essere convertita con l'ergastolo. No, chiede anche collaborazione dai suoi colleghi. Esatto, con tutta l'Uganda. Forza, certo. Insomma, una grande soggetta. E poi abbiamo Teresa Okafor, che si vuole accollare perfino un discorso anticoloniale andando a un congresso dei più colonialisti del mondo, perché dice: il preservativo è una trappola esportata in Africa dai bianchi per soffocare la vita. Diciamo che i bianchi in Africa hanno esportato tante altre cose, il preservativo, diciamo, forse era una delle poche cose. Esatto, che forse voleva andare in aiuto e non contrario. Comunque, vabbè, diciamo solo che se vuoi fare l'anticolonialista, siamo d'accordo, siamo tutti contro il colonialismo, però magari non andiamo al congresso di bianchi e fascisti europei. Omofobi. Esatto. Comunque, vabbè, questo congresso durerà 3 giorni, dicono di aver fatto il sold out e vabbè, siamo contenti di questo. Comunque vi invitiamo tutte e tutti a Verona, ci sono vari pullman che partiranno da varie città, o comunque Trenitalia offre dei treni gratis con tanto di caramelle che possiamo prenderci senza chiedere al bar. Insomma, raggiungete Verona e ci vediamo tutte e tutte lì alle 14:30 a Porta Nuova. Ciao. E quindi allora, venerdì inizia questo congresso mondiale delle famiglie, siamo tutte eccitate all'idea. E niente, questo congresso si inserisce all'interno del clima reazionario europeo e mondiale, e si inserisce soprattutto all'interno di Agenda Europa. Agenda Europa è un piano oscuro, ma neanche tanto, insomma, è un piano per eliminare fondamentalmente questa fantomatica teoria gender di cui tutti ignorano l'esistenza tranne loro, e i diritti e le libertà femminili. All'interno di questa agenda i piani sono dai più folli ai più anche divertenti, come l'eliminazione totale degli anticoncezionali della loro vendita, quindi niente preservativi e pregate Dio che non succeda niente. Esatto. Ecco. Poi abbiamo la tanto agognata legge che richiedono anche qui nel primo mondo, che è arrivata in Russia nel 2013 e sta scendendo via via lungo i paesi dell'est, che è la legge sulla propaganda omosessuale, che vieterebbe di fatto alle persone semplicemente di essere omosessuali, con la scusa che se lo fai, cioè se lo sei, lo propagandi, e quindi niente, anche questa legge che vogliono portare anche qui, siamo felicissimi all'idea. Poi niente, si rivendicano proprio il voler togliere questi millantati finanziamenti alla lobby LGBT, che ancora ignoriamo quali siano, perché qua ci sentiamo tutte un po' povere, magari avremo bisogno di un po' più di soldi. Poi si rivendicano appunto di voler eliminare qualsiasi progetto gender nelle scuole, perché non si può parlare di omosessualità nelle scuole come se si facesse o come se stesse succedendo. Tutti i progetti contro il bullismo omofobico nelle scuole, insomma, loro sono contro semplicemente l'esistenza dell'omosessualità, transessualità, e contro le donne, perché ovviamente vogliono eliminare l'aborto, è tra i primi progetti che hanno, perché loro sono pro-life, sono per la vita, finché chiaramente questa vita non fa parte di sessualità diverse dall'eterosessualità, o finché non arriva in Italia con un gommone, a quel punto non sono più tanto pro-life. E poi insomma, vabbè, parliamo di questi soggetti che sono tutti comunque reazionari di destra, fascisti e la peggio merda, insomma, e quindi niente, noi andremo a contestarli, andremo a mandarli a fanculo e niente. Yuhu! Vittoria del gender. Sì, tra l'altro di questa cosa del gender se ne sta parlando veramente un po' dappertutto, no? Cioè, c'è un dibattito molto discusso in ogni talk show, cioè con la cosa delle scuole, cioè, però vediamo che comunque tutte le volte, cioè, si vede benissimo la direzione che cercano di farli prendere a tutta questa cosa, dimenticandosi completamente ciò che il passato, cioè, ci insegnava sulla, no? cioè ci insegnava nel senso come veniva vista la sessualità prima. E cioè stiamo proprio facendo un vero passo indietro verso il Medioevo, ma ben oltre. cioè voi, cioè, pensate veramente che queste persone pensano quello che dicono, o semplicemente c'è, cioè, una propaganda che, cioè, ci credono veramente, dite? Ma quello a cui credono, va bene, anche mi interessa più di tanto, però ricordiamo che Pillon si rivendica che il Medioevo ha fatto delle grandi opere architettoniche, quindi è bellissimo, e quindi noi siamo qui ad aspettare l'epidemia di peste che ci liberi da questi soggetti. Poi sì, riguardo l'omofobia, la transfobia, che fondamentalmente non se ne sono mai andate, diciamo che c'è stato un processo all'interno sia del movimento, cioè all'interno proprio del movimento LGBTQIA+, questo fantomatico movimento che per alcune di noi quantomeno è morto pochi giorni dopo il 28 giugno 1969, in cui una parte soprattutto di quel movimento, cioè quello composto dai gay, bianchi e borghesi, ha voluto farsi assorbire dalla società, rivendicandosi di farsi accettare e quindi di apparire normale. Questo ha causato che sì, ora il matrimonio è legale in quasi tutti i paesi, tutte quelle soggettività invece che non si riconoscono nell'eterosessualizzazione dell'omosessualità, cioè la famiglia comunque monogama, dove tutti vanno al lavoro, hanno i figli, fanno una vita normale, si presentano in giacca e cravatta, adattati al loro sesso biologico senza schiaccare troppo, tutti quei soggetti sono stati assorbiti, tant'è che abbiamo anche soggetti omosessuali che si rivendicano il diritto del Congresso Mondiale delle Famiglie. Abbiamo uno di loro che non mi ricordo neanche il nome, che ha fatto proprio un articolo dove noi homo dovremmo essere più sobri, in cui si rivendica quel noi a cui nessuno gli ha chiesto, cioè noi nessuno non ci apparteniamo, gli ha chiesto niente, comunque. Esatto, non parlare a nome di tutti noi perché non ci riguarda. Da lì appunto l'esclusione prima di tutto delle soggettività non binarie, quindi di tutte quelle persone al di là delle persone transessuali che non si riconoscono nel binarismo di genere, cioè nel maschio e nella femmina, in un mondo fatto di maschi e femmine, ma che vogliono andare oltre, superarlo o non avere nessun genere o averne anche più di uno volendo, o adattarlo in base alla situazione in cui vivono. Tutte queste persone vengono oggettivamente escluse, tutte le persone che vogliono comunque fare sesso promiscuo, vogliono rivendicarsi una libertà sessuale al di là del rapporto monogamo, che è l'unico imposto in questa società, vengono escluse da tutto ciò. Appunto veniamo, tutte queste persone comunque al massimo sono definite come una carnevalata, tutte le lotte di queste persone vengono svilite anche dallo stesso movimento gay. Quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di un nuovo movimento. Questo nuovo movimento ci stiamo riconoscendo abbastanza nel transfemminismo queer, che sia va al di là del femminismo che includeva solo le donne cisgender e prevalentemente bianche, va a diventare intersezionale, quindi a coinvolgere tutte quelle altre soggettività che sono vittime comunque del sistema patriarcale, che non sono solo le donne cisgender, non sono solo le donne cisgender bianche, ma sono tutte quelle soggettività, fino ad arrivare ai migranti, che vengono colpite dal patriarcato bianco. E quindi nel transfemminismo si sta accendendo, secondo me, poi possiamo dire anche secondo noi, una miccia di un movimento di liberazione sessuale che stia ricominciando a camminare, insomma, visto che era stato abbastanza bloccato. A maggior ragione poi in quest'anno, che è un anno molto importante, perché comunque ricorrono i 50 anni di Stonewall, e quindi di come è nato il movimento di liberazione sessuale, che ricordiamo, al di là di come vogliono farci credere le associazioni, che Stonewall sia stata, vogliamo citare una frase del Toscana Pride, Stonewall è stata un'esperienza un po' frizzantina, Stonewall non è stata un'esperienza frizzante, Stonewall sono stati 5 giorni di rivolta, e ci teniamo a ribadirlo, di rivolta di trans maggiormente nere contro la società e la polizia, perché era la polizia il maggior nemico, in quanto il mandante della violenza contro le persone omosessuali e trans, bi, tutto quanto. Quella polizia che oggi, addirittura in America, abbiamo per celebrare questi 50 anni di Stonewall, vogliono celebrarli con un omaggio da parte della polizia alla comunità LGBT, una sorta di «ah vabbè, ok, vi abbiamo perdonato». Quindi ci sono in America volanti arcobaleno, distintivi arcobaleno, abbiamo visto ai Pride australiani la polizia grandi baci e abbracci con le drag queen e alcune soggettività del Pride, ovviamente guarda caso tutte bianche, quindi ci viene da chiedere, ok, magari la polizia poi non è neanche così, però ok, la polizia non va più in giro per New York a pestare le drag queen, in compenso pesta i migranti, pesta le detenute trans sono ancora in lotta perché vengono pestate ogni giorno, comunque l'omofobia colpisce ancora, soprattutto tramite la polizia. I primi 2 DASP urbani dati a Napoli sono stati contro 2 transessuali. Quindi, insomma, questo perdono da parte della polizia, noi non lo verso la polizia, noi non lo sentiamo, li riconosciamo ancora come parte del sistema violento in cui viviamo, e soprattutto sono i primi a proteggere i fascisti, quindi direi che sì, ci stiamo dilungando un po', però è sempre bene parlare contro la polizia e ricordare un po'. Dove ti dicono di stare e

Luigia, Pigia, Parigia. Parigia. Non mettetevi contro di noi, per favore. No, per favore. Abbiamo già troppi nemici. Troppi nemici. Abemus Papam. Sì, ce l'abbiamo. Ok. Ok. Marcello, che bello, la gente mi detesta. Io sono l'alfa gay, io sono gangsta. Le cagne che mi vedono non mi fanno festa. Ci sono un po' troppi presunti etero col cazzo in testa. Baby, io sono la regina, ma con le palle, troia, senza vagina. Sono la torta e pure la ciliegina. È una banana made in Italy e tu made in Cina. Io sniffo arcobaleni e tu tiri di colla. Amore mio, ma chi sei? Che cazzo sprolla? Ti guardi le mie foto e poi ti fai una sega. Perché non scopi manco col cazzo che te se frega. Ho fatto coming out a 12 anni, quando ancora Tiziano Ferro piangeva Bambi. In questo lager le docce sono abbronzanti. Siamo la lobby gay e siamo tanti. Ehi, hey, baby, baby, siamo la lobby gay. Io fossi in te, baby, adorerei, ehi. Siamo l'esercito homo e tu chi cazzo sei? Forti con la lobby gay, tu forti con la lobby gay. Ehi, hey, baby, baby, siamo la lobby gay. Io due domande, baby, me le farei, ehi. Pure la nostra merda sa di Calvin Klein. Forti con la lobby gay, tu forti con la lobby gay. Luigia pigia, Parigia è sulla scena. Quando ce l'hai in mano prende e lo pigia sulla tua schiena. Scema, la mazza approccia i vampiri chiama. Mi baffi, io sono e basta con gli schiaffi. Io sono santo, grande, paparazzi. La scippa, culo, amore, l'happy meal dei cazzi. Io sono quella che vorresti nei pornazzi. Mamma, sono l'idolo, la frocia dei tuoi ragazzi. Siamo la lobby gay, oh baby, baby. Tu Lady Gaga, sei la nostra fede. Madonna, 60 anni, ma mica molla. Ma lì lo so che sei tu quella più troia. Non vado coi gorilla, ma con gli orsi brunette. Io sono quella che non smette di sfrollare. Io sono quella che la gente adora odiare. Ehi, hey, baby, baby, siamo la lobby gay. Io fossi in te, baby, adorerei, ehi. Siamo l'esercito homo e tu chi cazzo sei? Forti con la lobby gay, tu forti con la lobby gay. Ehi, hey, baby, baby, siamo la lobby gay. Io due domande, baby, me le farei, ehi. Pure la nostra merda sa di Calvin Klein. Forti con la lobby gay, tu forti con la lobby gay. E vabbè, parlando di Verona, quello che almeno come nostro collettivo ci interessa fare come lavoro è anche il ragionamento di uscire dalle retoriche vittimiste. Cioè, ok, esiste l'omofobia, transfobia, bifobia, l'ellofobia, sessismo, tutto quanto, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo subire e stare in silenzio. Anzi, questa retorica l'abbiamo rotta 50 anni fa e possiamo romperla ancora. Nel frattempo che loro si lamentano di essere discriminati da questa millantata lobby gay, nelle strade continuiamo a essere uccisi noi, però siamo noi che continuiamo a ricevere discriminazioni, noi che c'è anche ce le autososteniamo certe discriminazioni come la sierofobia all'interno della comunità gay o come la transfobia e la misoginia all'interno della stessa comunità omosessuale, bisessuale, transessuale, eccetera. E tutte queste discriminazioni a cui noi abbiamo deciso di reagire e organizzarci per reagire. E questo può avvenire in qualsiasi maniera, ma soprattutto con un'autodifesa attiva. Cioè, noi riteniamo che difenderci sia necessario e che non dobbiamo stare a guardare discorsi come la pacificazione della rabbia che abbiamo dentro, perché è una rabbia che viviamo da una violenza quotidiana e che a volte questa violenza si può rispedire al mittente, ed è quello in cui crediamo anche noi, nelle varie forme in cui ognuno può decidere di usare. Ricordiamo, non lo so, che comunque la violenza omofoba e transfobica sta aumentando. C'è stato un omicidio omofobo a Roma neanche una settimana fa che è passato completamente inosservato. A settembre è stata uccisa una drag queen attivista sieropositiva ad Atene. Due settimane fa il checkpoint dove facevano i test gratis in Grecia è stato dato a fuoco, è stato data alle fiamme dai nazisti di Alba Dorata, che tra l'altro pensavano di attaccare un centro che colpisse i gay. In realtà il checkpoint di Atene consentiva test gratis per il 30% della comunità greca, e in un paese con la sanità al collasso era d'aiuto a tutti e tutti, non solo ai gay contro cui loro si volevano scagliare. Nel frattempo la Cecenia sta deportando omosessuali e si parla anche lì, per la solita misoginia del movimento gay, si parla tanto dei gay deportati, non si parla delle lesbiche che vengono deportate anche stuprate all'interno dei campi. La Russia, come al solito, ci guarda con amore, con tutte le leggi che sta facendo. Anche in Africa, grazie al colonialismo cristiano, si sta aumentando il vento omofobo, e anche lì vorremmo parlare del fatto che molte persone che scappano dalle leggi omofobe in Africa arrivano qui e si ritrovano a dover rendere conto, per ottenere il permesso di soggiorno e il diritto d'asilo, devono rendere conto della loro omosessualità. Anche qui troviamo un significativo segno del patriarcato bianco, perché le commissioni a cui devono dimostrare di essere omosessuali sono tutte commissioni di etero, che non è che se fossero di gay, insomma, il fatto che devi rendere conto di essere omosessuale a qualcuno per avere il diritto di stare in un posto non è che ci interessa, però a maggior ragione è dimostrazione del fatto che c'è una vile discriminazione ancora in tutto ciò. È il fatto che queste commissioni siano gestite quasi solo da eterosessuali. In Austria c'è stato un caso di una persona deportata perché aveva chiesto l'asilo in quanto omosessuale, è stata deportata perché secondo la commissione non era abbastanza gay. E quindi, cari migranti che andate a chiedere l'asilo per ragioni di omofobia, ricordatevi di indossare gli unicorni in testa, altrimenti potete rischiare la deportazione. Un altro caso è stato in Italia, dove a Verona, proprio dove c'è un centro, si chiamano i Pink Refugees, che si occupano di aiutare i ragazzi e ragazzi che chiedono l'asilo per ragioni di omofobia. Uno di loro è stato rifiutato il permesso di soggiorno e l'asilo, in quanto dicevano che le motivazioni erano che si viveva troppo felicemente la sua omosessualità. Cioè, i gay devono essere tristi, è risaputo, perché i gay vivono una discriminazione, quindi se sei un minimo sereno, magari perché non sei più in un paese dove rischi la morte, allora non sei palesemente gay. Questa persona è stata deportata. Ricordiamo anche che è stata deportata a fine dicembre una ragazza trans attivista a Roma. Oltretutto è stata deportata senza avviso in Perù, è stata prelevata da Digos e polizia, quelli che poi ai Gay Pride ringraziano, è stata deportata senza poter chiamare nessuno, senza poter contattare l'avvocato e ovviamente senza poter prendere niente dei suoi oggetti, visto che viveva da anni in Italia. Quindi qui si intersecano anche le questioni della lotta al razzismo ai confini. Noi come collettivo prendiamo posizione contro i confini e il razzismo, la violenza razzista che sta aumentando tanto quanto la violenza omofoba, perché tanto fanno parte tutti della stessa merda, e quindi, cioè, diciamo che noi come lotta queer non possiamo intendere una lotta queer che sia solo bianca e che pensi solo alla libertà queer delle persone queer, ma che pensi alla lotta di tutte le persone, di tutti quei corpi che cercano di lottare contro un mondo e ci imponga come dobbiamo essere, con chi dobbiamo scopare e soprattutto dove dobbiamo vivere. E quindi ci rivendichiamo comunque un antirazzismo, e a maggior ragione lo vogliamo portare a Verona, perché comunque chi gestisce il Comizio Mondiale delle Famiglie è ovviamente fa parte di quel meccanismo che va a chiudere le frontiere della Fortezza Europa, da Salvini a Fontana a tutti gli altri. Ok, cioè abbiamo, in realtà gli argomenti su questo tema sarebbero veramente infiniti, si potrebbe parlare per giorni interi, perché è un problema veramente radicato nella nostra società, il patriarcato, diciamo, una cosa che noi, cioè, inquadriamo bene come nostro nemico, cioè, che è appunto il patriarcato di Stato, perché è così che deve essere. E, però ci spostiamo anche a parlare di anche altre cose, perché questa stessa giornata purtroppo, cioè purtroppo per ben fortuna, che venga, però nello stesso giorno ci sarà anche, c'è un appello a un corteo a Torino per l'asilo, cioè per lo sgombero dell'asilo, è un appello internazionale, quindi si spera di essere abbastanza numerosi. La parola d'ordine è blocchiamo tutto, perché più siamo e più riusciamo a veramente essere incisivi nelle nostre città, nei nostri luoghi, creando un minimo di disagio a quello che è il normale flusso delle vite, delle merci e delle persone in una città o in questo bellissimo, meraviglioso paese. E, in una città soprattutto in cui la violenza poliziesca, comunque, di cui si parlava anche prima, si è manifestata in tutti i suoi aspetti in maniera così palese da essere notata anche dalle persone che solitamente magari non la noterebbero, quindi sì, non ricordiamo. Solo le persone, cioè una città comunque praticamente bloccata e così del tutto militarizzata, sì, comunque completamente militarizzata. Sì, ricordiamo che da dopo l'asilo comunque i blocchi hanno continuato lì intorno a Via Alessandra, cioè sembrava di essere davvero in Palestina. E, ma la cosa comunque, cioè, si percepisce comunque, si respira un'aria veramente di tensione, perché cioè, ricordiamo, mi sembra per l'8 marzo c'è stato un corteo grosso transfemminista e cioè, diciamo che hanno sfondato un cordone di polizia e sono state anche caricate, sì, se non sbaglio. E, però comunque riuscendo ad arrivare dall'altra parte, quindi diciamo che si parla di un... Il volto di Torino, diciamo che è il volto di una città che non vuole arrendersi, non vuole sottomettersi alla violenza poliziesca che sta cercando di battere sulle nostre teste ancora di più, e anzi, cioè, che sa, diciamo, reagire e alzare la testa. Diciamo, ogni giorno ci sono mobilitazioni, presidi nelle piazze, contestazioni. Ah, è vero, anche poi c'era stata questa critica al MAS. Ah, sì, è stato interessante. Anarchici in bicicletta. Sì, sì, no, infatti, cioè, è assurdo anche le dichiarazioni di questori, perché cioè, sembra che ormai sia diventato illegale il pensiero anarchico, che... Cioè, ogni lo è forma diventato, di, sì, di, fatto, sì, di fatto lo è proprio diventato. Comunque, ultimamente siamo felici. Gli anarchici sono stati duramente repressi, imprigionati, c'è cioè, comunque una paura. Sì, sì. Boh. Una paura del libero pensiero, sì, quello vero, quello individuale, quello che parte da ognuno di noi e che ci fa veramente provare a essere una differenza in questo mondo. Cioè, è stata caricata una critica al MAS in malo modo, cioè dalla Celere, perché hanno, boh, non so... Perché c'erano degli anarchici. Sì, no, infatti la loro spiegazione è stata questa, che noi non avremmo mai caricato una manifestazione di libero pensiero, ma sì, all'interno del corteo c'erano degli anarchici. Gli anarchici non pensano. Anarchici in bicicletta. Oh mio Dio, pedalano. E non possono stare troppo a rigirare sulla stessa rotonda o sullo stesso incrocio, perché si sa ora anche con le nuove leggi il blocco stradale sta diventando un reato bello che grave, si rischia fino a 12 anni, no, era? 6, 6, sì. Ma gli anni non sì, si contano, no, più gli anni non c'è l'occupazione, cioè, no, stanno veramente dando i numeri, comunque diciamo. Sta diventando più grave, avevamo fatto anche delle ricerche, sta diventando più grave bloccare una strada che sversare rifiuti radioattivi in pieno centro urbano, quindi tutto vero. Potete prendere anche posizioni rivoluzionarie diverse, insomma, estinzioniste. Comunque no, vogliamo ricordare che anche, boh, come Froce, la signorina Appendino, che l'anno scorso era in prima fila al Pride, al grido di diritti per tutti e tutte, Poi faceva la diretta degli sgomberi dei campi rom, ha festeggiato lo sgombero dell'asilo, insomma, certo. Speriamo che venga anche quest'anno il Gay Pride per ricevere dei saluti calorosi, ma no, non è una minaccia, tranquilla. No. E, insomma, tutto calorosi. Questo, sempre come al solito, il pinkwashing usato per, ok, sì, siamo per i diritti per tutti finché sono bianchi e ricchi, poi... tornano le ruspe, i manganelli. Ricordiamo poi un altro caso che riguarda lo sgombero dell'asilo, che nel corteo successivo allo sgombero è stato arrestato un compagno queer, e la stampa ha deciso di dover fare coming out di il coming out di questa persona in un articolo, dicendo poi ah no, anche i gay fanno le rivolte, insomma, poi persino loro. Sì, tra l'altro questa persona è stata accusata di resistenza e devastazione e saccheggio, poi è caduto tutto tranne resistenza. Ricordiamo che nel mentre che era arrestato era su una barella perché l'avevano pestato, quindi la sua resistenza magari sì, intellettualmente e mentalmente, però penso. Fisicamente esatto, però gli anarchici e i gay non pensano, quindi non esistono. Ah sì, insomma, c'è questo clima che c'è a Torino, vabbè, poi ve ne parleremo meglio una volta che avremo in studio quelli che ora si stanno vivendo le giornate là e quelli che andranno. Invitiamo tutti a venire sabato, sarà una sia cosa a Verona che a Torino. Dividiamoci un po'. Sì, dividiamoci un po', cerchiamo di essere un po' ovunque. Dappertutto, perché c'è veramente tanta necessità di essere ovunque. triste, le notti bianche. Fuori canta un temporale, dentro uguale, maremoto sensoriale, passeggiare per andare, per tornare, animo crepuscolare. Fuori canta un temporale, dentro uguale, maremoto sensoriale, passeggiare per andare, per tornare, animo crepuscolare. Sei, e lei aveva l'aria dolce di una vita amara. Sei, che seminava tempesta, tempesta, tempesta. Sei, e nella notte il mondo lievita, e lui le dedica ogni nevica. Perché vedica, vedica, vedica. L'aria che sotto lo zero sposta le nubi dal cielo, copre la luna ed appesantisce il mio passo leggero. Sposta la neve che sosta accumuli sul mio sentiero. Io mi confondo dentro la notte vestendo di nero. Fiori appassiti, usi davanzali nei viali smarriti. Risate rocche di fumatori incalliti che si trasformano in liti. Su quei bicchieri branditi da mani gialle gremiti, dalla tristezza che non li ha guariti. Io mi promisi che mai avrei risposta agli abbai di cani soli a tre zampe in bilico su quei rosai. Solo fornai, farine secche di impasti di guai, luci soffuse di TV accese ferme sulla Rai. Tutto d'un tratto le sensazioni vengono interrotte, più che svanite direi lenite, del tutto ridotte. Anche la neve si congelava dentro le condotte, gli occhi di lei negli occhi miei solo per quella notte. Abito bianco di luna, occhi di rara fortuna, dentro la bruma vidi spostarsi il suo passo di piuma. Triste leggiadra, lei che pagava senza meta alcuna, su quella strada che sa di lei il suo ricordo profuma. Danza su un ago, balla spassate in festa, ora lo indosso nel cuore, non me lo tolgo di testa. È come un pallido abbraccio che più lo scaccio più resta. Torna bussando sul vetro, appannate freddo della mia finestra. Sei. E lei aveva l'aria dolce di una vita amara. Sei. Che seminava tempesta, tempesta, tempesta. Sei. E nella notte il mondo lievita, e lui le dedica ogni nevica. Perché vedica. Passava di fretta sfidando la luna in bellezza, seguendo il richiamo delle nenie e del vento di terra. Da dove il tempo era opaco come in un quadro di Rembrandt, e il cielo era un lago e ogni onda di brezza spostava ogni stella. E lui si spinse ogni notte fino alle dune e alle alture, per poterla incontrare di nuovo, un uomo e due lune. E la città della notte era una vecchia del luogo in costume, le sue collane di luce tremavano in coro nel fiume. Tra i locali illuminati, i passaggi dei taxi giù in strada, e un blu fenomenale vestiva i teatri ogni stato. Luminarie fulminate, la loro sintassi stentata, illuminando ogni viale cercando i suoi passi di fata. E se l'avesse incontrata davvero a un tratto in attesa, sarebbe rimasto d'incanto dopo tanta ricerca. Ma dichiararsi in un lampo non sarebbe stato una pena, perché le aveva parlato già tanto anche quando lei non c'era. E in fondo chi era? Una maga nera, una dama austera. E lui l'avrebbe ammonita per quegli occhi tristi e il candore. Una fata vera, una baiadera, una naiade greca, che gli aveva piantato germogli di enigmi nel cuore. Poi un giorno la vide entrare dentro la metro, lui la raggiunse di scatto, gli giunse ad un passo dal vetro. E nel momento più adatto al contatto esatto, in quell'attimo si bloccò lì d'impatto. Ad un tratto decise di tornarsene indietro, se ne era accorta all'istante, tutto d'un colpo, come in un corto. Dopo averla cercata tutte le notti, dopo quel giorno, non esiste realtà che resti all'altezza del sogno. Lei non sarebbe stata più quella, più bella del solo ricordo. Se. E lei aveva l'aria dolce di una vita amara. Se. Che seminava tempesta, tempesta, tempesta. Se. E nella notte il mondo lievita, e lui le dedica ogni nevica. Perché vedica. Insomma, un forte clima di resistenza ancora continua a investire Torino e le sue strade, perché i compagni non vogliono né farsi abbattere né arrendersi di fronte a questa violenza di Stato. Ricordiamo che dopo lo sgombero ci sono state molte mobilitazioni che hanno colpito la città, e persino al carcere delle Vallette, dove fuochi di esplosioni di rabbia e di gioia hanno movimentato, diciamo, quella nottata fredda in quelle celle. E, mentre davvero si grida i CIE bruciano e le galere, fuoco alle galere, questo i compagni di Torino diciamo che lo vogliono veramente portare avanti come discorso. Inoltre poi ricordiamo un altro atto repressivo, ha colpito un ragazzo in lotta contro il CIE, Tami è stato messo in sciopero della, cioè si è andato in sciopero della fame, è in sciopero della fame penso tuttora, comunque ha superato i 40 giorni. E di tutta risposta, vista la solidarietà che è arrivata da fuori della celle del CIE, è stato deportato a Bari. Uno dei, boh, non so come definire, commissari, dirigenti che si occupano dei CIE, è stato trovato da alcuni compagni mentre diceva la frase a dei poliziotti: se crepa è colpa sua, non nostra. Insomma, questa è la considerazione che loro hanno delle vite umane, quindi rispondiamo con la considerazione che noi dobbiamo avere delle loro vite. Quindi solidarietà a Tami, solidarietà a tutti i migranti e le migranti in lotta sia alle frontiere che dentro i CIE, sia che sono in viaggio, e insomma, fuoco alle frontiere, abbattiamo, sosteniamo i migranti e le migranti in lotta. E invece, tornando a quello che succederà a Firenze nel prossimo fine settimana, ci sarà sabato, come dicevamo prima, il presidio no aeroporto Sea Parco contro l'aeroporto che vogliono fare a Firenze. Quindi vi invitiamo tutti ad andare, sarà al polo scientifico di Sesto. Che è una vera e propria mega opera... grande opera di Firenze dopo questa cosa della tranvia, diciamo, è posizionata nell'elenco delle grandi opere in Italia perché si presenta proprio come tale, cioè una merda. Sì, le grandi opere che servono poco alle persone del posto, ma più... ad arricchire chi le fa. Sì, e invece domenica ci sarà una giornata internazionale per... Orso, il compagno morto una settimana fa sul fronte in Rojava. E noi vorremmo leggere l'ultimo messaggio che ci ha lasciato Orso. Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura di partita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste parole. Diciamo che queste parole... vabbè, c'ho ancora i brividi, e sono molto famose che stanno girando parecchio sui social, sui giornali, pure sono girate e noi pensavamo di leggerle perché cioè, è importante secondo noi ogni singola parola di tutta questa, diciamo, lettera, testamento, come volete chiamarlo, e speriamo che davvero cioè, rimanga dentro di noi come un insegnamento e non come un simbolo, come un qualcosa che ci ripetiamo, perché sono parole che racchiudono una forte consapevolezza, una forte volontà della propria scelta di vita, della propria scelta del destino, diciamo, E quindi, cioè, vogliamo veramente ringraziare le sue parole, perché sicuramente faremo tesoro di queste parole e cambieranno veramente tanto il nostro modo di... O almeno lo speriamo che siano un punto di partenza anche per risvegliarci, per capire che anche quello che possiamo fare può fare la differenza. E quindi non... come si diceva anche prima, non fare sempre le vittime e pensare che il mondo fa schifo e che... Non rassegnarsi. Sì. Ma soprattutto essere in primis noi a reagire contro i mali che prima di tutto sono dentro di noi e sono da sconfiggere dentro di noi, e poi che appunto lui parla di un egoismo, cioè di tutti quei sentimenti che fanno parte dell'essere umano, ma che noi vogliamo contrastare perché pensiamo che ci sia anche qualcosa di molto più nobile, diciamo, nell'essere umano, e forse da questo punto di vista ce l'ha anche dimostrato. Quindi invitiamo tutti e tutte a venire a questa manifestazione, che partirà alle 3 in Piazza Leopoldo, da Piazza Leopoldo, che appunto è il quartiere dove Orso ha vissuto, dove ci troviamo noi ora a Rifredi, e diciamo, vorremmo trasformarla in una giornata che possa davvero essere all'altezza della sua scelta di vita e di tutto il suo percorso, che ci colpisce, speriamo che sia da esempio per tutti. E poi ricordiamo la solidarietà invece a chi non è caduto sul fronte ma è tornato in Italia e si è ritrovato con una bella inchiesta della procura, tra cui la richiesta di sorveglianza speciale, un'accusa di terrorismo. Quindi c'è solidarietà ai compagni torinesi tornati a Rojava e a tutti gli altri compagni europei che tornano, sì, e che sono ancora lì, e che sì, e a quelli che stanno ancora combattendo, anche se fortunatamente la bandiera del califfato è caduta nell'ultimo villaggio. E poi un altro appuntamento che ricordiamo è il 18 aprile, ci sarà la sentenza del processo panico di primo grado. Ricordiamo che 3 compagni anarchici si ritrovano ancora nelle galere con l'accusa di tentato omicidio per un artificiere che si è fatto male da solo, quindi solidarietà anche a compagni e alle compagne delle vittime, che hanno subito l'operazione panico, insomma. Sì, appunto, un attacco agli anarchici che sta colpendo da centro a nord, a est e ovest. Sì, con tanta fantasia. Sì, con tanta fantasia, da sovversione, cioè associazione a sovvertire, a associazioni terroristiche, cioè si parla davvero di ritorno del terrorismo nel mondo dei compagni, perché ormai, cioè, sta diventando così: chi lotta non è più un delinquente ma è un terrorista e basta, un nemico dello Stato numero uno, in cima alla lista dei servizi segreti. Ricordiamo Torino, quello che stanno vivendo i compagni Trento i compagni di Trento, che cioè appunto perché vogliono contrastare questo fascismo, cioè hanno deciso di praticare, di andare avanti con un antifascismo attivo e che non metta una bandierina e basta su un'altra bandiera, ma che provi veramente a contrastare questo che è il nostro nemico, lo dobbiamo dire. E mentre il terrorismo che viene fatto dai fascisti a giro per il mondo, che porta anche nome di italiani o che italiani fanno ogni giorno, non è considerato... No, come dicono i giornali internazionali, sono poveri angeli che forse è colpa dei videogiochi. È colpa dei videogiochi, di quello che... Sì, quando sì. Invece non i misteri si infittiscono. Nonostante riescono a preparare una cosa, cioè con 4 persone, preparata veramente a tavolino... È un mistero sulle cause del perché un bianco uccida un nero. Però va avanti così, ma non è terrorismo. La dichiarazione del premier, del nostro vice premier, è stata tuo vice premier, no? Degli italiani. E è stata perché il terrorismo islamico va contrastato. Ma come, cioè, dichiari una cosa del genere quando, cioè, un bianco va a sparare in una moschea a 40 musulmani? Cioè, oh mio Dio, cioè, dici vabbè, ok, la coerenza e l'ipocrisia alle stelle. Vabbè, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre a mezzogiorno, con Carta Canta. Se ci riusciamo, se teniamo vivi. Sì. No, che saremo sempre qui. Niente, speriamo con buone notizie da tutte queste giornate interessanti. Vi lasciamo con l'ultima canzone. Buon ciao, pomeriggio. Ragazzi. Buona. Ciao. Guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà. Ora da lupo dell'inverno resto a guardia del mio fuoco, perché c'è una guerra dentro dove tutto implode, c'è una guerra fuori lenta e silenziosa che corrode, c'è un nemico che prende e si divora ogni mio sogno, c'è un nemico che più lo combatto più ne ho bisogno, perché la luce brilla nell'oscurità, io la metto in rima questa guerra per poterla cantare, con una brace dentro al cuore ed una tregua a metà, e poi la pace forse un giorno verrà. Qua c'è una guerra in ogni giorno ed è una lunga storia. Questa è la storia di una lunga guerra e la memoria. Covo la pace da una vita ma metto un divario. Non siamo uguali ma il giudizio a rendermi avversario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso il contrario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso.